E ieri avevamo un presidio come avvocati sia dei giuristi democratici che del Legal Team Italia, che sono gli avvocati che di solito da più di 10 anni vanno in piazza durante le manifestazioni per garantire il diritto di manifestare e per evitare provocazioni, purtroppo non sono state evitate, e comunque per monitorare, diciamo, tutto quello che avviene, soprattutto quando ci sono degli scontri. E ieri è stata una giornata che è cominciata con telefonate di gente contentissima, c'erano più di 50 avvocati con le pittorine intorno per il corteo, che andavano visitando, diciamo, tutti i vari spezzoni e che ci davano notizia che tutto si svolgeva bene. La prima notizia di Via Cavour è stata presa un po' così, nel senso che capita in tutte le manifestazioni che qualcuno decida di avere degli obiettivi diversi. Quando è degenerato tutto, nel senso che la polizia ha cominciato a caricare indistintamente tutto il corteo, soprattutto a San Giovanni, evidentemente gli avvocati si sono portati tutti sulla piazza di San Giovanni, hanno cercato di arrivarci, molti sono stati impediti perché all'altezza tra via Merulana e via Labicano non sono potuti più avanzare, molti altri sono rimasti imbottigliati a San Giovanni, parlo degli avvocati di Torino, degli avvocati di Napoli e anche altri di Bologna e di Modena, i quali poi si sono rivolti a questo numero, diciamo, verde dove stavamo noi, e hanno spiegato quello che avveniva, e di questo poi magari ne parliamo dopo. Fino alla sera, a mezzanotte, fino a stanotte alle 3, gli avvocati sono andati in giro per i commissariati. E quindi è successo che dal monitoraggio che si è fatto nei commissariati non risulterebbero più di 7 persone arrestate, mentre a mezzanotte ci hanno detto che erano 12. O sono stati rilasciati altri dei 12 arrestati, i 20 fermati sono stati rilasciati tutti. Evidentemente, siccome sono stati arrestati tutte persone che non c'entrano niente con coloro che possono aver fatto delle azioni illegali in piazza, evidentemente anche la polizia non ha saputo come catalogare le persone fermate, non ha saputo quali reati accollargli, e sicuramente c'è tra tutti, da parte della polizia, perché poi il capo di imputazione lo fa il pubblico ministero, non è che le fa la polizia. La polizia ipotizzato il reato di resistenza, danneggiamento, però ancora non è non è formalizzato, perché questo lo farà il PM lunedì mattina presso un tribunale collegiale a Roma, e dove certo va al collegiale perché comunque c'è la resistenza con il maggior numero di persone, con l'aggravante aggravata con maggior numero di persone. Quindi, ma anche nei confronti pubblici ufficiali, formalmente abbiamo, diciamo, per le notizie si presume, perché non è che ci dire i reati, certo. Però l'hanno portato in carcere diversamente da altre volte, sette sicuri. Non sappiamo se alla Digos hanno portato delle persone, perché questi sono portati nei commissariati. Queste sono le informazioni. L'aria che tirava, diciamo, dalle telefonate commissariati, come un po' l'aria che tirava, il clima era comunque. Noi sappiamo che gli avvocati, pur essendo, come dire, santi, però lavorano anche con le forze dell'ordine come interfaccia. Ma veramente l'interfaccia è stata che anche dirigenti, sia della Digos che della polizia, contattati, erano fuori di testa, erano sconvolti, hanno detto: per favore, non possiamo parlare, e evidentemente anche loro non sapevano da che parte cominciare. Abbiamo visto passare decine di blindati dei carabinieri e della polizia che uscivano da Castro Pretorio, che sappiamo che è una caserma di riserva, diciamo, quando le situazioni sono molto gravi, e quindi da lì sono usciti quei blindati che tiravano l'acqua, e anche moltissimi dei carabinieri, perché evidentemente, siccome i carabinieri in ordine pubblico dipendono dalla polizia, evidentemente erano già appostati dal questore, dal questore responsabile. Questo è un po' la situazione dei fermati. Avete notizie, informazioni invece sui feriti? Sui feriti sono arrivati tante quelle telefonate che sembrava che erano 200 feriti, poi molti si sono risolti in cadute fuggendo, in sassi che sono arrivati in testa, come una ragazza che è stata medicata e poi pensava di essere piantonata in ospedale, poi invece parlando con questi poliziotti se ne sono andati, quindi non era più piantonata, e c'è stato un tentativo della polizia di arrestare più gente possibile, ma poi non sapeva sapevano dove collocare queste persone, come è avvenuto il 14 dicembre, e quindi molti sono stati rilasciati proprio perché per la confusione. La polizia ha cercato di coprire i palazzi, diciamo, del potere verso Piazza Venezia, quindi sì, questo poi essersi adesso poi spostati gli ha prodotto questa confusione. Queste informazioni invece su alcuni feriti gravi voi non avete conferma? Perché avevamo la conferma di un signore o un ragazzo, non so chi sia, che ha raccolto da terra una cosa che non era esplosa e gli è scoppiata nelle mani, e credo che sia quello che hanno operato al policlinico per le dita. Sì, insomma, e più o meno le informazioni sono senti, queste. Ieri sera è arrivata tramite, non mi ricordo se Corriere.it o Repubblica.it, la notizia che la polizia al San Giovanni ha avuto, al San Camillo, scusate, tentava di identificare le persone che venivano portate dalle ambulanze, i feriti, e che c'è stato anche, insomma, l'opposizione abbastanza medici, determinata dei medici, perché dicevano per noi sono feriti normali, non ci sono ipotesi di reato, e quindi è stato impedito. Sai qualcosa? Sì, infatti io ho parlato con questi il posto di polizia del San Camillo, il quale si è adoperato per mandare via i poliziotti che stavano lì, in effetti, perché lui doveva fare il suo lavoro, doveva raccogliere le dichiarazioni delle persone che arrivavano ferite, perché avevano immaginato che erano della manifestazione, però lui deve solo redigere, e le persone ferite che telefonano gli avvocati dicevano non parlate con i poliziotti, al che questo signore era un po' adirato quando è stato chiamato e ha convinto gli altri poliziotti ad andare via. Sì, diciamo, non accettate caramelle dagli sconosciuti, ecco. Insomma, anche se in divisa. Va bene, questo è un po' il punto della situazione, un bilancio tutto sommato, adesso vediamo che tipo di imputazioni ci saranno rispetto ai manifestanti e che tipo di provvedimenti verranno presi, invece come capita vengano presi, ma noi finché non vengono presi preferiamo anche non parlarne, no? Cioè sulla base delle indagini, filmati, le foto, eventuali denunce. Si vedrà, non ci interessa per adesso, a parte dichiarazioni tipo arrestateli tutti sui diversi giornali, che però sono abbastanza di routine. Volevo chiarire però che in effetti a una prima visuale gli arrestati sono persone giovanissime, sono persone che sicuramente non stavano facendo niente, perché sono, a detta anche di colleghi che sono stati commissariati, e hanno detto che erano proprio ragazzi spaventati, non erano persone che si potevano identificare come persone. Vabbè, non è che devi convincere convincere i giudici. No, però è la visione degli avvocati che hanno un po' di esperienza. L'avvocato deve convincere i giudici. Comunque, a noi già ci ha convinto. È questo, l'avvocato deve difendere comunque. Però. Va benissimo, allora questo è un po' il quadro. Noi ti ringraziamo, ti invitiamo a rimanere con noi perché comunque adesso iniziamo un po' di riflessioni. Avrai avuto tantissime informazioni, ti abbiamo chiesto di non, diciamo, esporle immediatamente, perché magari la raccogliamo come testimonianza dopo questo quadro. Ci prendiamo solo un attimo di pausa musicale.